Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Genesi capitolo 8, versetto 1. Ma Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. Ci sono momenti nella vita in cui possiamo sentirci dimenticati, intrappolati in una situazione che sembra non avere fine. Forse Noè e la sua famiglia provarono qualcosa di simile mentre si trovavano nell'arca, galleggiando su un mondo coperto d'acqua senza sapere quanto sarebbero durate ancora le piogge o quando avrebbero rivisto nuovamente la terraferma. E poi arriva questo versetto: ma Dio si ricordò di Noè. Non è incoraggiante? In mezzo alla tempesta, quando tutto sembrava incerto, Dio non solo si ricordò di Noè, ma agì. Questo passaggio ci rivela qualcosa di meraviglioso sul carattere di Dio. Egli non dimentica mai il suo popolo. Quando la Bibbia dice che Dio si ricordò, non significa che si fosse mai dimenticato. Piuttosto, indica il momento in cui Dio decide di agire, il momento in cui il suo piano comincia a dispiegarsi in modo nuovo e tangibile. È un richiamo al fatto che anche se possiamo sentirci alla deriva, Dio è sempre attento e pronto a intervenire nel momento perfetto. Cerchiamo di comprendere meglio il passaggio. Genesi 8, versetto 1, segna un punto di svolta nella storia del diluvio. Dopo 40 giorni e notti di pioggia e più di un anno nell'arca, Noè e la sua famiglia potrebbero essersi sentiti completamente isolati. E forse è stato così. Tuttavia, questo versetto ci ricorda che Dio non li aveva dimenticati. Il verbo si ricordò, in ebraico, zakar, implica più che un semplice ricordare. Porta con sé la connotazione di agire in favore di qualcuno. Così, quando si dice che Dio si ricordò di Noè, significa che Dio decise di intervenire e di adempiere la sua promessa di salvezza. Il vento che Dio fece passare sulla terra simboleggia l'inizio della restaurazione. Come lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque nella creazione in Genesi capitolo 1, 2, ora il vento soffia per calmare le acque del giudizio e preparare la terra per un nuovo inizio. Questo atto non solo segnala la fine del diluvio, ma anche la fedeltà di Dio nell'adempiere il suo patto con Noè. Dio non è solo un giudice giusto, ma anche un salvatore fedele che porta a compimento il suo piano di redenzione. Forse ti sei sentito come Noè, intrappolato in una situazione senza fine, in attesa di un segno che Dio sia ancora lì con te. E questo versetto ci assicura che Dio non dimentica i suoi. Anche nei momenti più bui, Egli sta lavorando, preparando la via per un nuovo inizio. E quando arriva il momento, come avvenne con Noè, Dio agisce potentemente nelle nostre vite. Ecco tre verità bibliche che possiamo estrarre da questo passaggio. Numero 1. Confida nel tempo di Dio. Anche se a volte sembra che Dio ritardi, il suo tempo è perfetto. Chiediti: sono disposto ad aspettare in Dio, confidando che Egli agirà nel momento giusto? Verità numero 2. Ricorda che Dio non dimentica. Questo versetto ci rammenta che Dio è sempre attento ai suoi figli. Se ti senti dimenticato, ricorda che Dio si ricorda di te e che il suo piano procede anche quando non lo vedi. Verità numero 3. Dio è il Signore della creazione. Un vento soffiò e le acque si abbassarono. Questo è Dio. Egli comanda alle acque e queste obbediscono. È una tremenda sicurezza per noi. Dubiterai forse che Egli abbia il potere e il controllo della tua vita? Genesi 8:1 è un bellissimo richiamo al fatto che Dio non ci abbandona né ci dimentica mai. Anche quando tutto sembra fermo, Dio sta lavorando dietro le quinte, pronto ad agire nel momento perfetto e a rinnovare la nostra vita. Preghiamo. Signore, grazie per la tua fedeltà e per non dimenticarti mai di noi. Aiutami a confidare nel tuo tempo e ad aspettare con fede, sapendo che agisci sempre nel momento perfetto. Fa che possa vedere i segni della tua opera nella mia vita e camminare con speranza nel tuo piano. Amen. Oggi leggiamo Genesi capitolo 8, Matteo capitolo 8, Esdra 8 e Atti capitolo 8. Grazie per essere stati con noi. Un giorno alla volta è una produzione liberamente tradotta e adattata in italiano. Se desideri approfondire, ricevere ulteriori risorse o metterti in contatto con noi, cercaci online come Chiesa Evangelica Logos. A domani!